Lettore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al premio Strega assegnato il 2 luglio scorso. Ha vinto, come noto, Sandro Veronesi con Il Colibrì, pubblicato dalla Nave di Teseo. Ha ottenuto 200 voti da una giuria composta da 660 persone. Lo ricordiamo, oltre ai tradizionali 400 amici della domenica, ossia esponenti del mondo della cultura, ci sono 200 intellettuali scelti dagli istituti di cultura italiana all'estero, 40 lettori e 20 voti collettivi di università e biblioteche. Veronesi è riuscito anche nell'impresa di vincere il premio per la seconda volta dopo averlo conquistato nel 2006 con Caos Calmo. Questa doppietta era riuscita solo a Paolo Volponi nel 65 e nel 91. Al secondo posto, con 68 voti di distacco, Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, Einaudi, seguito da Valeria Parrella con Almarina, altro titolo Einaudi in Lizza. Quarto, Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano, che ha segnato il ritorno di Feltrinelli allo Strega dopo alcuni anni nei quali aveva preferito non partecipare. Quinto posto per Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza, Mondadori. Infine Jonathan Bazzi con Febbre, pubblicato da Fandango, rivelazione di quest'anno, entrato come sesto perché è stata applicata la clausola secondo la quale almeno un titolo di un piccolo editore deve essere presente in finale. Ma partiamo dal vincitore, Il Colibrì di Sandro Veronesi. Una vita ricca di potenti urti emotivi è la vita di Marco Carrera, protagonista appunto di Il Colibrì. Il primo grande urto è la morte della sorella Irene, che si suicida, lo possiamo dire perché lo si capisce veramente dalle prime pagine. Un evento che influenzerà tutta la sua vita e che avviene mentre lui, ventenne, ha il primo incontro con Luisa, destinata a diventare l'amore della sua vita. In realtà Marco sposerà Marina, ma Luisa, come dire, rimarrà sempre la sua amante, che appare nel romanzo solo attraverso le lettere che gli scrive. Degli altri urti emotivi, invece, non diciamo nulla. Diciamo che sta al lettore scoprirli. E allora sentiamo come Veronesi descrive il suo protagonista nell'intervista che avevamo realizzato all'uscita del romanzo nell'ottobre del 2019. Allora, innanzitutto è un oculista, un oftalmologo, e lui ci tiene a pensare che è dottore come Zivago. Zivago è dottore in oculistica. È un po' un destino che lui si cerca, perché poi si cerca e si trova la sua Lara, questo amore impossibile e questo rapporto che lui ha col mondo, che assomiglia un po' al rapporto che Zivago ha. Certo, Zivago attraversa un fatto epocale come la rivoluzione, quindi è ma tu ti sei ispirato a quel personaggio lì per disegnare il tuo Marco? Io no, però lui sì, cioè il personaggio credeva di essere una specie di Zivago quando deve appunto resistere a questi urti emotivi. Io sapevo che lui pensava a Zivago e agli urti emotivi che Zivago deve, quanti sono nel romanzo, tantissimi, che lui deve sopportare. Di urti emotivi Marco Carrera ne subisce tantissimi nella sua vita. Partiamo per esempio dalla famiglia d'origine, madre, padre, famiglia borghese fiorentina. Tu descrivi Marco Carrera come un ragazzino che non si rende conto, per esempio, che il rapporto fra i suoi genitori non è esattamente idilliaco. Tra parentesi, il titolo Il Colibrì deriva da un soprannome che gli aveva dato sua mamma, perché lui aveva l'ormone della crescita poco sviluppato, quindi era piccolino e poco sviluppato appunto in tutti i sensi, e vive in questa famiglia quasi non rendendosi conto di quelle che sono le frizioni fra i genitori. Sì, non si rende conto che la combinazione di quei due genitori, che ovviamente lui ama come si amano i genitori, è una combinazione che produce solo infelicità, non può produrre altro che infelicità. Poi viene detto anche che questi due ci hanno anche provato a essere felici, lo sono anche stati per un breve periodo, ma anche prima producevano infelicità. Sono due persone infelici che si sono messe insieme credendo di poter diventare felici e poi invece hanno continuato a essere infelici, a quel punto anche però trasmettendo questa infelicità ai figli. E soprattutto forse trasmettendola ad Irene, che è la sorella maggiore. Siccome c'è una sorella maggiore che fa da parafulmine, da puntaspilli, lei

La nostalgia per una donna del passato e le riflessioni sul tempo che passa sono al centro del romanzo di Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, e Einaudi, arrivato secondo al premio Strega con 132 voti. Un romanzo che ha visto il ritorno di un personaggio seriale, l'avvocato barese Guido Guerrieri. A distanza di quasi 30 anni, Guerrieri incontra Lorenza, una donna con la quale aveva avuto una relazione coinvolgente e appassionante quando aveva 25 anni. Ma ora il fascino di quella donna, la sua risolutezza, sembrano essere svaniti. Lorenza chiede aiuto a Guerrieri perché il figlio è stato condannato in primo grado per un omicidio. Per Guerrieri questo caso sarà anche l'occasione per fare un salto nel passato e rapportarsi con i ricordi. Io credo che questa cifra del personaggio, quella della malinconia, unita all'uso sistematico dell'ironia e l'autoironia, è proprio una caratteristica che c'è sin dal primo romanzo. Guerrieri, diciamo, sta sul crinale del tempo, sin da testimone inconsapevole, guarda indietro, riflette malinconicamente su quello che è passato e poi però si accorge che non riesce a essere malinconico troppo a lungo. Però il tema dei ricordi, della memoria, anche un po' della malinconia sono temi spesso presenti nei tuoi romanzi. Quindi inizio, insomma, a intuire ormai dopo tanti romanzi tuoi che leggo che questa è una cifra che ti appartiene. Sì, mi piace molto il fatto di stare su quel crinale in cui si combinano la nostalgia, a volte appunto la malinconia, ma poi contemporaneamente o quasi, o comunque con un passaggio rapidissimo, una dimensione di sorriso, di dissacrante, ma non in maniera distruttiva. Appunto la pratica dell'ironia e dell'autoironia è un pezzo fondamentale della cifra stilistica di Guerrieri, e in generale è una cosa che a me piace molto nelle persone. Mi piace incontrare persone che sono capaci di cogliere la delicatezza dei sentimenti, dei propri e degli altri, ma che non trascorrono tutto il tempo a osservare questi sentimenti e a macerarsi nella tristezza che possono generare. Mi piacciono le contraddizioni, ecco. Elisabetta Maiorana, 50 anni, insegna matematica nel carcere minorile di Nisida. Il marito è morto da 3 anni, non ha figli. In carcere incontra una 16enne romena che si fa chiamare Almarina, che si è lasciata alle spalle un terribile passato. Il padre la picchiava e la violentava e così era fuggita per venire in Italia insieme al fratellino. Queste sono le due protagoniste del romanzo Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi, arrivato terzo al premio Strega. Due donne private dell'affetto, fra le quali si verrà a creare un rapporto intenso e pieno di speranza. All'inizio Elisabetta dice che quando entra in carcere si sente libera. È un paradosso? In che cosa si concretizza la libertà che tu hai notato io ho messo nel oltre quella sbarra? Nel fatto che lei trova in casa una estrema solitudine che non riesce ancora a gestire, il fantasma del marito ovunque, attraversa una città complicatissima, che è una città che ti costringe a trattarla come un altro personaggio. Sostanzialmente non si può essere indifferenti a Napoli, o ti arrabbi o ti fa stare bene o ti distrai, ma certamente non è una città qualunque. E infine arriva nel luogo di lavoro. Ora io credo questo dei luoghi di lavoro. In assoluto credo che il lavoro salvi le persone, le renda libere. Credo che sia molto vero per le donne, e quindi l'idea di mandarla a lavorare per farla sentire libera è ancora gioca, secondo me, proprio perché lei è un personaggio femminile. E infine c'era quella cosa che tu hai notato, e cioè che all'interno della sbarra, ma prima ancora della sbarra che rende inaccessibile Nisida in quanto carcere, lei si sente libera perché in realtà che cosa succede? Che nella procedura di ingresso, questo in qualunque carcere, tu devi lasciare tutto, ovviamente, perché è vietato portare beni personali in un luogo di reclusione, perché potrebbero esserti sottratti, potrebbero essere usati male, quindi si lascia tutto, e lasciando tutto lei riesce a lasciare se stessa in qualche modo. E questo fatto di essere nuda dentro, di essere vestita solamente del proprio ricordo, del proprio intelletto, e di esattamente dei vestiti che ha addosso, la libera proprio dalla costrizione sociale. Al quarto posto si è classificato un esordiente d'eccezione, Gian Arturo Ferrari con Ragazzo Italiano, pubblicato da Feltrinelli. Parliamo di esordiente d'eccezione perché questo è sì il suo primo romanzo, ma Ferrari è un uomo noto nel mondo dell'editoria, è stato per esempio per anni direttore dei libri Rizzoli e Mondadori. Ragazzo Italiano è un romanzo di formazione in cui si racconta la storia di Ninni dalla fine degli anni 40 ai primi anni 60. L'infanzia divisa fra una cittadina industriale alle porte di Milano e la vita contadina in un paesino dell'Emilia. Un papà che non comprende la sua sensibilità e lo rimprovera per la balbuzie. Poi la svolta con il trasferimento a Milano e una vita fatta di libri. Una svolta segnata anche dalla scuola, perché Ninni passa dalle elementari di provincia, dove si fa una discriminazione in base al censo, alle scuole di Milano fondate sulla meritocrazia. La scuola, che è uno degli assi fondamentali del libro, la scuola, dico, compare nel libro con due tonalità e due valori diversi. È sostanzialmente, per dirla in breve, molto peggio di quello che è la scuola d'oggi, soprattutto nei primi anni della scuola elementare che il bambino frequenta a Zanegrate, appunto per il motivo che diceva lei, perché è come dire, la matrice di una struttura sociale rigidissima, divisa, per dirla chiaramente, in classi. I bambini sono disposti nei banchi a seconda del loro censo. E poi invece le scuole di Milano, sia gli ultimi anni delle elementari, sia poi le medie e soprattutto il liceo, sono esattamente l'opposto. Cioè sono scuole, devo dire, migliori di quelle che ci sono oggi, nel senso che erano scuole altissimamente formative, molto selettive, molto più selettive della scuola odierna, ma molto costruite su un'idea sostanziale di merito, che poi invece forse, dico forse, si è un po' andata perdendo. E rimane comunque il fatto che la scuola nel dopoguerra italiano e negli anni della rinascita dell'Italia ha avuto un ruolo centrale e fondamentale. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. Tutto chiede salvezza di Daniele Mincarelli, pubblicato da Mondadori, è arrivato al quinto posto al premio Strega. Racconta la storia, in parte autobiografica, di Daniele, che a 20 anni trascorre una settimana in un reparto psichiatrico per un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. In questi 7 giorni incontra persone mentalmente disturbate ma dalla grande umanità. Daniele è senza difese, si fa invadere dalle sofferenze degli altri, è costantemente alla ricerca di senso. Ed è questo che gli psichiatri finiscono per codificare come malattia. Sì, in realtà è quel confine labilissimo tra ciò che è nella natura dell'uomo, ciò che magari invece appartiene già a un elemento patologico rispetto sempre al nostro vivere, al nostro essere. Quel confine è labilissimo, ma è un confine che tiene conto anche dell'epoca, della cultura e della civiltà che accoglie l'essere umano. Fino a 60-70 anni fa, nei nostri manicomi, e si andava in manicomio per pubblico scandalo, e lo poteva decidere da un medico a un poliziotto, a un giudice, ma anche una famiglia poteva chiedere l'internamento per pubblico scandalo. Fino a 60-70 anni fa, addirittura l'omosessualità era segno di malattia mentale. Io credo che oggi il terreno di scontro sia diverso, un terreno più esistenziale. Credo che un uomo che si interroga sulla propria esistenza, che percepisce il limite della propria esistenza, che sente questo limite in qualche maniera stretto rispetto a quello che sente, a quello che ama, io credo che entro certi termini non sia assolutamente un segno di una patologia, ma sia un segno benedetto di vitalità. Che ne sanno loro della violenza, chiusa dentro 4 matrimoni, dove chi ama paga e chi non ama ci ripensa. E infine Infine Febbre, romanzo d'esordio di Jonathan Bazzi, pubblicato da Fandango. Si è parlato molto di questo libro perché è la storia vera della scoperta della sieropositività dell'autore, ma è anche il racconto di un luogo, Rozzano, alle porte di Milano, che diventa simbolo di tutti quei luoghi claustrofobici e invasivi che mettono ai margini chi ha un modo diverso di sentire il mondo. Un luogo in cui Jonathan, che da piccolo ama le bambole e si accorge presto di essere gay, è circondato da figure maschili prepotenti e violente. C'è stata sicuramente una fatica e molti momenti di tensione e anche di dolore, sia all'interno della mia famiglia, ma anche poi nel confronto con ciò che mi circondava, e poi anche ovviamente nel contesto scolastico, dove appunto alcune mie caratteristiche spiccavano per il fatto di essere appunto non uniformi al... Non omologato, esatto, insomma, al tuo contesto. Esatto. E quindi ecco, sì, questa tensione c'è e c'è stata, e però appunto, come racconto nel libro, anche questo senso di separazione a un certo punto, crescendo, mi sono accorto che poteva costituire una eredità, cioè una sorta di training, di allenamento, quantomeno nel non dare in automatico credibilità alle opinioni degli altri, a ciò che gli altri pensano di noi e o di caratteristiche che ci appartengono. Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega, che trovate come le altre in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.